Capitolo 2. Brani di diverse lettere di Anna a Gilbert. 26 settembre. Sai dove vado a leggere le tue lettere? Nel boschetto, dall'altra parte della strada. Laggiù c'è una valletta dove il sole crea giochi di luce tra le felci. È attraversata da un ruscelletto dal corso tortuoso. C'è un tronco coperto di muschio su cui mi siedo e c'è un incantevole filare di giovani betulle. D'ora in poi, quando farò un certo tipo di sogno, un sogno verde-oro screziato di porpora, ovvero il sogno dei sogni, sarò contenta di pensare che viene dalla mia valletta segreta delle betulle e che è nato dall'unione mistica tra la più alta ed esile betulla e il ruscello dalla voce cristallina. Mi piace ascoltare il silenzio del boschetto. Hai mai notato quanti silenzi diversi ci sono? Gilbert. Il silenzio dei boschi, della spiaggia, dei prati, della notte, del pomeriggio estivo. Uno diverso dall'altro, perché sono diversi i suoni di fondo che li formano. Sono certa che se fossi completamente cieca e incapace di sentire il freddo e il caldo, saprei dirti con facilità dove sono basandomi sulla qualità del silenzio che mi circonda. La scuola va avanti da 2 settimane e sono riuscita a organizzare le cose piuttosto bene. Ma la signora Braddock aveva ragione. Il mio vero problema sono i Pringle. Non so ancora bene come lo risolverò, nonostante i 3 quadrifogli trovati. Come dice la signora Braddock, usano i guanti ma per nascondere la mano di ferro. I Pringle sono una specie di clan. Si criticano e si combattono tra di loro, ma si sostengono a vicenda di fronte agli estranei. Sono giunta alla conclusione che a Summerside esistono 2 tipi di persone, quelli che sono Pringle e quelli che non lo sono. La mia classe è piena di Pringle e molti degli studenti con un altro nome hanno nelle vene il loro sangue. Mi sembra che il capo sia Jen Pringle, una marmocchia con gli occhi verdi e l'aria che doveva avere Becky Sharp a 14 anni. Credo che stia volutamente organizzando una sottile campagna di insubordinazione e boicottaggio che sarà difficile affrontare. È molto abile nel fare smorfie di un'irresistibile comicità e quando sento alle mie spalle un coro di risate soffocate, so benissimo quale ne è la causa. Ma finora non sono riuscita a coglierla in fallo. È anche intelligente la briccona. Sa scrivere componimenti con qualche lontana parentela letteraria e per mia disgrazia è molto brava in matematica. C'è una vivacità originale in tutto quello che fa o dice e ha un senso dell'umorismo che ci accomunerebbe se non avesse preso subito a odiarmi. Stando così le cose, credo che ci vorrà molto tempo prima che io e Jen potremo ridere insieme. Myra Pringle, cugina di Jen, è la più bella della scuola ed è di una stupidità spaventosa. Compie errori divertenti. Come oggi, durante la lezione di storia, quando ha detto che gli indiani ritenevano Champlain e i suoi uomini degli dèi o una specie inumana. In società i Pringle sono la crema di Summerside, come dice Rebecca Dew. Sono già stata invitata a cena da 2 famiglie Pringle. Perché si usa invitare a cena una nuova insegnante e i Pringle non intendono tralasciare i doveri del loro rango. Ieri sera sono stata da James Pringle, il padre della suddetta Jen, all'aria di un professore universitario, ma in realtà è stupido e ignorante. Ha parlato molto di regime di ferro, battendo sulla tovaglia un dito dall'unghia non perfettamente pulita e massacrando di quando in quando la grammatica. Al liceo di Summerside si era sempre preferito il polso fermo di un insegnante d'esperienza, preferibilmente maschio. A sentir lui, io forse ero un po' troppo giovane, difetto a cui il tempo porrà presto rimedio, ha aggiunto mestamente. Io non ho detto nulla perché se avessi parlato avrei detto troppo. Così anch'io mi sono armata del guanto di velluto dei Pringle e mi sono accontentata di guardarlo con occhio limpido, dicendo tra di me: tu, vecchia creatura scorbutica e piena di pregiudizi. Jen deve aver preso il cervello della madre, che nonostante tutto mi è piaciuta. Jen, in presenza dei genitori, è stata un modello di buona educazione, ma il tono delle sue parole gentili era sotto sotto insolente. Tutte le volte che diceva signorina Shirley, riusciva a farlo sembrare un insulto. E tutte le volte che mi guardava i capelli me li sentivo di un orribile rosso carota. Nessun Pringle, ne sono certa, ammetterebbe mai che sono biondo rame. Mi è piaciuta di più la famiglia Morton Pringle, anche se Morton Pringle non ascolta mai quel che gli dici. Ti dice qualcosa e mentre rispondi lui pensa alla prossima domanda. La signora Stephen Pringle, vedova Pringle, Summerside pullula di vedove, ieri mi ha scritto una lettera cortese, formale e velenosa. Do troppi compiti a Millie. Millie è una bambina delicata e non deve essere sforzata. Il professor Bell non le dava mai compiti. È una bambina sensibile che bisogna capire. Il professor Bell la capiva alla perfezione. E la signora Stephen Pringle è certa che con un po' di buona volontà ci riuscirò anch'io. Senza dubbio, la signora Stephen crede che oggi in classe sia stata io a far sanguinare il naso di Adam Pringle che ha dovuto andarsene a casa. E ieri notte mi sono svegliata e non sono riuscita a riaddormentarmi perché mi sono ricordata di una I che ho scritto senza puntino alla lavagna in una domanda. Sono certa che Jem Pringle l'ha notato e la notizia farà il giro del clan. Rebecca Dew dice che tutti i Pringle mi inviteranno a cena, tranne le vecchie di Maplehurst, e poi mi ignoreranno per sempre, dato che loro sono la crema. Vuoi dire che forse sarò bandita dalla buona società di Summerside? Boh, staremo a vedere. La battaglia è incominciata, ma non è ancora né vinta né persa. Però tutto questo mi rattrista. Non si può combattere contro i pregiudizi. Non sono cambiata dai tempi in cui ero bambina, non sopporto di non piacere alla gente. Non è gradevole pensare che le famiglie di metà della mia classe mi sono contro, e non per colpa mia. È l'ingiustizia che mi ferisce. Non posso fare a meno di sottolinearlo, mi dà una specie di sollievo. A parte i Pringoli, i miei alunni mi piacciono. Alcuni di loro sono intelligenti, ambiziosi e diligenti, veramente intenzionati a conquistarsi un'istruzione. Lewis Allen si paga vitto e alloggio facendo i lavori di casa nella pensione che la ospita e non se ne vergogna affatto. E tutti i giorni Sophie Sinclair si sobbarca una cavalcata senza sella di 9 chilometri all'andata e 9 al ritorno sulla vecchia cavalla grigia del padre. Ecco qualcuno che ha del fegato. Potendo aiutare una ragazza del genere, che mi importa dei Pringle? Il guaio è che se non conquisterò i Pringle non avrò la possibilità di aiutare nessuno. Ma adoro Windy Willows. Non è una pensione, è una vera casa e vado a genio a tutti, persino a Dusty Miller. Anche se a volte la mia presenza lo infastidisce e me lo dimostra voltandomi platealmente la schiena, salvo sbirciarmi con un occhio giallo per vedere come la prendo. Non lo coccolo quando Rebecca Dew è nelle vicinanze, perché la irrita proprio. Di giorno è un animale casalingo, docile, riflessivo, ma di notte è decisamente una creatura bizzarra. Rebecca dice che è così perché non gli permettono di restare fuori con il buio. Detesta andare in cortile a chiamarlo. Dice che i vicini a quest'ora rideranno tutti di lei. Lo chiama con tono tanto feroce e stentoreo che nelle notti tranquille la si può davvero sentire per tutta la città mentre grida «Puss! Puss! Puss!» Le vedove avrebbero una crisi isterica se Dusty Miller non fosse a casa all'ora di andare a letto. Nessuno può sapere quello che ho passato a causa di quel gatto, mi ha assicurato Rebecca. Con le vedove andrà bene. Mi piacciono ogni giorno di più. Zia Kate disapprova i miei romanzi, ma mi ha informato che non intende censurare le mie letture. Zia Chetty invece li adora. Li tiene in un nascondiglio, dopo averli portati di contrabbando dalla biblioteca cittadina, insieme a un mazzo di carte per il solitario e a tutto quello che non vuol far vedere a zia Kate. È il doppio fondo di una sedia che solo zia Chetty conosce. Mi ha confidato il segreto perché ho il preciso sospetto che voglia da me aiuto e complicità nel suddetto contrabbando. In effetti, non ci sarebbe bisogno di nascondigli a Windy Willows perché non ho mai visto una casa tanto piena di armadi misteriosi, anche se Rebecca Dew i misteri non li farebbe vivere a lungo. Pulisce sempre tutto, fino all'ultimo cantuccio. Le case non si tengono pulite da sole, dice gravemente quando una delle vedove oppone rimostranze. Sono certa che trovandoli farebbe piazza pulita di un romanzo o di un mazzo di carte. La sua mentalità ben pensante rifiuta sia l'uno che l'altro. Rebecca Dieu dice che le carte sono i libri del diavolo e i romanzi ancora peggio. Oltre alla Bibbia, Rebecca legge soltanto gli articoli e la cronaca mondana del Guardian di Montreal. Adora sapere tutto delle case, dei mobili e delle occupazioni dei ricconi. Pensi, signorina Shirley, cosa deve essere fare il bagno in una vasca d'oro? Mi ha detto un giorno con aria sognante. Però è un vero tesoro. Ha tirato fuori da chissà dove una vecchia sedia con il poggiatesta di broccato stinto che fa proprio al caso mio e ha detto: questa è la sua sedia personale. È riservata a lei. E non ci lascia dormire, Dusty Miller. Casomai mi restino dei peli sulla gonna di scuola, dando motivo di critica ai Pringle. Tutte e tre hanno dimostrato interesse per il mio anellino di perle e per quel che significa. Zia Kate mi ha mostrato il suo anello di fidanzamento di turchesi. Non può più portarlo perché le è diventato stretto. Invece la povera zia Cetti mi ha confessato, con le lacrime agli occhi, che non ha mai avuto l'anello di fidanzamento. Suo marito lo riteneva una spesa non necessaria. Era in camera mia e stava lavandosi il viso con il siero di latte. Lo fa tutte le sere per mantenere bella la pelle e mi ha fatto giurare di non dirlo a zia Kate. Lo riterrebbe ridicolo da parte di una donna della mia età. E sono certa che per Rebecca Dieu una buona cristiana non dovrebbe cercare di essere bella. Una volta scendevo di soppiatto in cucina, dopo che zia Kate era andata a dormire, ma avevo sempre paura che arrivasse Rebecca. Ha l'udito di un gatto, anche quando dorme. Se potessi venire qui tutte le sere e... Oh, grazie, mia cara. Ho scoperto qualcosa sui vicini di Evergreens. La signora Gamble nasce Pringle. Ha 80 anni. Non l'ho ancora vista, ma da quello che si dice è molto austera. Ha una cameriera, Martha Monkham, vecchia e austera quasi quanto la padrona, che viene generalmente chiamata la donna della signora Campbell. Con lei vive una pronipote, la piccola Elizabeth Grayson. Elizabeth, non ho ancora avuto il piacere di vederla, nonostante sia qui da 2 settimane, ha 8 anni, frequenta una scuola privata e per andarci si serve di una scorciatoia sul retro, così non la incontro mai. La madre, che è morta, era nipote della signora Campbell. Era stata a sua volta allevata dalla nonna, essendo rimasta orfana. Sposò un certo Pierce Grayson, uno Yankee, come direbbe la signora Linde. Morì nel dare alla luce Elizabeth, e poiché Pierce Grayson doveva lasciare immediatamente l'America per impiantare la filiale della sua ditta a Parigi, la neonata venne mandata dalla vecchia signora Campbell. Si dice che il padre non abbia mai voluto vedere la figlia perché era stata la causa della morte della moglie e non se ne è mai occupato. Può darsi che siano tutti pettegolezzi perché né la signora Campbell né la sua donna lo nominano mai. Rebecca Dieu dice che sono troppo severe con Elizabeth e la piccola non si diverte granché con loro. Non è come gli altri bambini, è più vecchia dei suoi 8 anni. A volte dice certe cose. Rebecca, mi fa un giorno, pensa un po' se entrando nel letto ti sentissi afferrare una caviglia. Non c'è da meravigliarsi che abbia paura di andare a dormire al buio, e ce la fanno andare. La signora Campbell dice che non vuole codardi in casa sua. La sorvegliano come due gatti che spiano un topo e la tiranneggiano fino a renderle la vita impossibile, poveretta. Se fa il minimo rumore, loro quasi svengono. È un continuo shh, shh. Parola mia, finiranno per farla morire quella bambina, a furia di sht qua e sht là. Ma che cosa ci si può fare? Me lo chiedo anch'io. Vorrei tanto poterla vedere. Mi sembra una figuretta tanto patetica. Zia Kate dice che è ben accudita da un punto di vista fisico. Zia Kate ha detto testualmente: la nutrono e la vestono bene, ma i bambini non vivono di solo pane. Non riesco a dimenticare com'era la mia vita prima dell'arrivo a Green Gables. Tornerò a casa venerdì sera per passare 2 belle giornate ad Avonlea. L'unico inconveniente sarà che tutti mi chiederanno come va l'insegnamento a Summerside. Ma pensa a Green Gables ora, Gilbert. Il lago delle acque scintillanti, avvolto nella nebbiolina azzurra. Gli aceri al di là del ruscello che incominciano a diventare rossi. Le felci bruno dorate nella foresta stregata. E le ombre del tramonto nel viale degli innamorati, il mio posto preferito. Quasi quasi vorrei essere laggiù con... Indovina un po'? Lo sai, Gilbert, a volte sospetto sul serio di amarti. 10 ottobre. Onorevole ed egregio signore. Così incominciava una lettera d'amore della nonna di Zia Cetti. Non è stupendo? Il nonno poteva ben sentirsi tronfio. Non lo preferiresti al solito, caro Gilbert? Ma tutto sommato sono contenta che tu non sia quel nonno o un qualsiasi nonno. Non è meraviglioso pensare che siamo giovani e abbiamo tutta la vita davanti a noi? Una vita da vivere insieme? Me ne sto sul sedile della torretta, vedo le fronde stormire contro il cielo color dell'ambra e tutto il paesaggio fino alla baia. Ieri sera ho fatto una bellissima passeggiata da sola. Sentivo il bisogno di muovermi perché l'atmosfera di Windy Willows era un po' deprimente. Zia Cetti piangeva in salotto per qualche offesa fatta alla sua sensibilità, zia Kate piangeva in camera sua perché era la ricorrenza della morte del capitano Amasa e Rebecca Dew piangeva in cucina per chissà quale ragione. Non ho mai visto piangere Rebecca Dew prima d'ora, ma quando le ho cortesemente chiesto se c'era qualcosa che non andava, è saltata su a dire che una povera donna poteva ben permettersi il lusso di piangere, se ne aveva voglia. Così ho levato le tende e l'ho lasciata al suo lusso. Mi sono avviata verso la baia. C'era un gradevole e pungente profumo ottobrino nell'aria, mescolato all'odore dei campi appena arati. Ho continuato a camminare finché il crepuscolo non si è stemperato in una notte autunnale di luna. Ero da sola, ma non mi sentivo sola. Sostenevo una serie di conversazioni immaginarie con interlocutori immaginari, inventando battute fulminanti che mi hanno fatto stupire di me stessa. Mi sono perfino divertita, nonostante i cruci che mi danno i Pringle. Sono in vena di vuotare il sacco a proposito dei Pringle. Mi dispiace molto ammetterlo, ma le cose non vanno affatto bene al liceo di Summerside. Non c'è dubbio che è stata ordita una congiura contro di me. Tanto per incominciare, i Pringle, sia quelli veri che quelli imparentati, non fanno mai i compiti per casa. Ed è inutile rivolgersi ai genitori. Sono delicati, cortesi, evasivi. So di piacere a tutti gli altri alunni che non sono Pringle, ma il virus della disobbedienza sparso dai Pringle sta minando il comportamento di tutta la classe. Una mattina ho trovato la cattedra rovesciata e sottosopra. Naturalmente nessuno sapeva chi fosse stato. E un altro giorno nessuno ha saputo o ha voluto dire chi ha lasciato sulla cattedra una scatola con un serpente di gomma che è schizzato fuori appena l'ho aperta. Ma tutti i Pringle mi hanno riso in faccia. Credo effettivamente di aver avuto un'aria piuttosto spaventata. Una volta sì, una volta no, Jane Pringle arriva in ritardo a scuola, sempre con una scusa plausibile, esposta educatamente, con una piega insolente della bocca. Durante le lezioni passa i biglietti sotto il mio naso. Oggi, quando ho messo il soprabito, ho trovato una cipolla sbucciata nella tasca. Se potessi mettere quella ragazza a pane e acqua e insegnarle così a comportarsi come si deve. L'episodio più grave, di cui non sono riuscita a trovare il colpevole, è la mia caricatura, fatta alla lavagna con il gesso bianco e i capelli rosso fuoco. Tutti, Jen compresa, hanno negato di averla fatta, ma lo so che Jen è l'unica della classe capace di disegnare così. Era un lavoro ben fatto. Il naso, l'unico mio punto d'orgoglio, come ben sai, aveva la gobba e la bocca era quella di una zitella inacidita che ha insegnato per 30 anni a classi piene di Pringle. Però ero io, senza ombra di dubbio. Quella notte mi sono svegliata alle 3 con l'incubo di quel disegno. Strano, vero? La sensazione di disagio notturno è raramente provocata da vere malvagità. Sono le umiliazioni che fanno star svegli. Di me si dice di tutto. Mi si accusa di abbassare i voti dei saggi di Hattie Pringle solo perché è una Pringle. Si dice che io rida quando i ragazzi sbagliano. In effetti, non ho potuto fare a meno di ridere quando Fred Pringle ha definito il centurione colui che viveva a 100 anni. James Pringle va ripetendo: non c'è regime in quella scuola, ed è stata messa in giro la voce che sono una trovatella. Incomincio a incontrare l'ostilità dei Pringle anche in altre sedi, dal punto di vista sociale come in quello scolastico. Summerside è evidentemente dominata dai Pringle, non c'è da stupirsi che li chiamino la famiglia reale. Non sono stata invitata da Alice Pringle alla passeggiata di venerdì e quando la signora Frank Pringle ha organizzato un tè di beneficenza per la chiesa, Rebecca Dio mi ha informato che le donne benefiche intendono costruire il nuovo campanile. Sono stata l'unica nubile della chiesa presbiteriana a cui non è stato chiesto di prendere un tavolo. Ho sentito dire che la moglie del nuovo pastore di Summerside aveva proposto di chiedermi di cantare nel coro, ma le è stato detto che in questo caso i Pringle sarebbero andati via tutti. Così sguarnito il coro non avrebbe più potuto funzionare. Naturalmente non sono la sola ad avere problemi con gli alunni. Quando gli altri mi mandano qualcuno da mettere a regime, odio quella parola, si tratta per lo più di un Pringle. Di loro però non si lamenta mai nessuno. 2 sere fa ho trattenuto Jen dopo le lezioni per farle fare un compito che non aveva eseguito di proposito e dopo 10 minuti la carrozza di Maplehurst si è fermata davanti alla porta e ne è scesa l'anziana signorina Ellen con begli abiti, un dolce sorriso, eleganti mezzi guanti di pizzo nero e un bel naso aquilino. Sembrava un figurino di moda nel 1840. Era tanto spiacente, ma poteva prendere Jen. Stava andando a far visita ad alcuni amici a Lowvale e aveva promesso a Jen di portarla con sé. Jen è andata via trionfante e io mi sono resa conto ancora una volta di combattere contro un vero e proprio esercito. Nei momenti di pessimismo penso che i Pringle siano una miscela tra gli Sloane e i Pye, ma so che non è così. Sento che potrei andarci d'accordo se non mi fossero nemici. Per lo più è gente sincera, allegra e di seri principi. Potrei perfino provare simpatia per la signorina Ellen. Non ho mai visto la signorina Sara. Non mette piede fuori da Maplehurst da 10 anni. È troppo delicata, o così crede lei, dice Rebecca Dio arricciando il naso. Ma l'orgoglio non le manca certo. Tutti i Pringle sono orgogliosi. Ma le 2 signorine passano ogni immaginazione. Dovrebbe sentirle parlare dei loro antenati. Beh, il padre, il fu capitano Abraham Pringle, era davvero un grand'uomo, non si può dire altrettanto di Myron, il fratello del capitano, ma di lui i Pringle non parlano granché. Io ho proprio paura che tra tutti le daranno del filo da torcere. Quando si fanno un'idea su qualcosa o qualcuno, cascasse il mondo, non la cambiano. Ma lei vada a testa alta, signorina Shirley. A testa alta, mi dice Rebecca Dio. Chissà se riuscirò mai ad avere dalla signorina Sara la ricetta della torta lievitata, ha detto con un sospiro zia Cetty. Promette di darmela di quando in quando, ma non lo fa mai. È una vecchia ricetta inglese di famiglia. Tengono tanto alle loro ricette. Nei miei sogni più fantasiosi immagino di costringere la signorina Sara a dare in ginocchio la ricetta a zia Cetty e di fare di Jen un'alunna rispettosa. Quel che mi indispettisce di più è che potrei riuscirci da sola se tutto il clan non sostenesse Jen nella sua malvagia opera di disturbo. Vostra umilissima serva Anna Shirley. PS. La nonna di zia Cetty firmava così le lettere d'amore.